Le tre sorelle Mora volevano molto bene al ragazzo, gli prestavano i libri segreti e lo aiutavano a decifrare le chiavi degli oroscopi e delle carte di divinazione. Gli si sedevano intorno, tenendosi per mano, per trafiggerlo con i fluidi benefici. Ma neppure questo riuscì a dotare Nicolas di poteri mentali. Lo proteggevano nei suoi amori con Amanda. Dapprima la giovane era parsa affascinata dal tavolino a tre gambe e dagli artisti zazzeruti della casa di Nicolas, ma di lì a poco si era stancata di evocare fantasmi e di recitare il poeta, i cui versi correvano di bocca in bocca, ed entrò a lavorare come corrispondente in un giornale. È una professione truffaldina, aveva sentenziato Esteban Trueba quando era venuto a saperlo. Trueba non aveva simpatia per lei, non le piaceva vedersela in casa. Pensava che avesse una cattiva influenza su suo figlio. Ed era dell'idea che i suoi capelli lunghi, i suoi occhi dipinti e le sue bigiotterie fossero sintomi di qualche vizio occulto e che la sua tendenza a togliersi le scarpe e a sedersi per terra con le gambe incrociate, come un aborigeno, fosse una maniera da virago. Amanda aveva una visione molto pessimista del mondo e per sopportare le sue depressioni fumava hashish. Nicolas le faceva compagnia. Clara aveva capito che suo figlio viveva dei brutti momenti, ma neppure il suo prodigioso intuito le aveva permesso di mettere in relazione quelle pipe orientali che Nicolas fumava con le sue stranezze deliranti, i suoi momenti di sonnolenza e i suoi attacchi di ingiustificata allegria, perché non aveva mai sentito parlare di quella droga né di altre. Sono cose dell'età. Poi gli passerà, diceva, vedendolo comportarsi come un lunatico, senza rammentare che Jaime era nato nello stesso giorno e non aveva alcuna di quelle stravaganze. Le follie di Jaime erano di stile molto diverso. Era portato al sacrificio e all'austerità. Nel suo armadio c'erano solo tre camicie e due pantaloni. Clara passava l'inverno a sferruzzare velocemente indumenti di lana grezza per tenerlo coperto, ma lui li usava solo finché un altro più bisognoso di lui non gli si parava davanti. Tutto il denaro che suo padre gli dava finiva nelle tasche degli indigenti che curava in ospedale. Ogni volta che un cane scheletrito lo seguiva per strada, lo ricoverava in casa e quando veniva a sapere dell'esistenza di un bambino abbandonato, di una madre nubile o di una vecchia inferma che aveva bisogno della sua protezione, arrivava con lei o con loro affinché sua madre si occupasse del problema. Clara si trasformò in un'esperta in assistenza sociale, conosceva tutti i servizi dello Stato e della Chiesa in cui si potevano sistemare gli sventurati e quando questo non bastava, finiva per accettarli in casa. Le sue amiche avevano paura di lei, perché ogni volta che le andava a trovare era sempre perché aveva qualcosa da chieder loro. La rete dei protetti di Clara e Jaime si era così estesa che non potevano contare la gente che assistevano. Sicché era per loro una sorpresa che d'improvviso apparisse qualcuno a ringraziarli per un favore che non si ricordavano nemmeno di aver fatto. Jaime aveva preso i suoi studi di medicina come una vocazione religiosa. Gli sembrava che qualunque diversivo che lo allontanasse dai suoi libri o gli sottraesse tempo fosse un tradimento per l'umanità che aveva giurato di servire. Questo ragazzo avrebbe dovuto farsi prete, diceva Clara. Per Jaime, al quale i voti di umiltà, povertà e castità del sacerdote non avrebbero dato fastidio, la religione era la causa di metà delle disgrazie umane, sicché quando sua madre parlava così diveniva furioso. Diceva che il cristianesimo, come quasi tutte le superstizioni, faceva l'uomo più debole e rassegnato e che non bisognava aspettare una ricompensa in cielo, bensì lottare per i propri diritti in terra. Queste cose le discuteva da solo con sua madre perché era impossibile farlo con Esteban Trueba, che perdeva immediatamente la pazienza e finiva per urlare e sbattere le porte perché, come diceva, era ormai stufo di vivere tra autentici pazzi e l'unica cosa che voleva era un po' di normalità. Aveva avuto la disgrazia di sposarsi con un'eccentrica e di mettere al mondo tre bislacchi buoni a nulla che gli amareggiavano l'esistenza. Jaime non discuteva con suo padre. Passava per casa come un'ombra, dava un bacio distratto a sua madre quando la vedeva e se ne andava direttamente in cucina, mangiava in piedi gli avanzi degli altri e poi si chiudeva in camera sua a leggere o a studiare. La sua stanza era un tunnel di libri, Tutte le pareti erano coperte dal pavimento sino al soffitto di ripiani di legno, zeppi di volumi che nessuno puliva perché lui teneva la porta chiusa a chiave. Erano nidi ideali per i ragni e per i topi. Al centro della stanza c'era il suo letto, una branda militare, illuminato da una lampadina nuda che scendeva dal soffitto sopra la testiera. Durante un terremoto che Clara si era dimenticata di predire, si udì uno strepito da treno deragliato. E quando riuscirono ad aprire la porta, videro che il letto era sepolto da una montagna di libri. Si erano staccati i ripiani e Jaime ne era rimasto schiacciato. Lo tirarono fuori senza un graffio. Mentre Clara toglieva i libri, si ricordava del terremoto e pensava che aveva già vissuto quel momento. La circostanza servì per togliere la polvere ai sostegni e a scacciare gli insetti e gli uccellacci a colpi di ramazza. Le uniche volte che Jaime metteva a fuoco la vista per percepire la realtà della casa era quando vedeva passare Amanda per mano a Nicolas. Ben poche volte le rivolgeva la parola e arrossiva violentemente se lo faceva lei. Non si fidava del suo aspetto esotico ed era convinto che se si fosse pettinata come tutti e si fosse tolta il bistro dagli occhi, sarebbe apparsa come un topo magro e verdastro. Tuttavia non poteva fare a meno di guardarla. Il tintinnare di braccialetti che accompagnava la giovane lo distraeva dai suoi studi e doveva fare un grande sforzo per non seguirla in casa come una gallina ipnotizzata. Solo nel suo letto, senza potersi concentrare nella lettura, immaginava Amanda nuda, avvolta nei suoi capelli neri, con tutti i suoi ornamenti rumorosi, come un idolo. Ahimè, era un solitario. Era stato un bambino ritroso e più tardi un uomo timido. Non amava se stesso e forse per questo pensava meritare l'amore degli altri. La minima dimostrazione di interesse o di simpatia nei suoi riguardi lo faceva vergognare e soffrire. Amanda rappresentava l'essenza di tutto il femminile per lui, essendo la compagna di Nicolas di tutto il proibito. La personalità libera, affettuosa e avventuriera della giovane lo affascinava e il suo aspetto da topo travestito stimolava in lui l'ansia travagliata di proteggerla. La desiderava dolorosamente, ma non osò mai ammetterlo, neppure nel più intimo dei suoi pensieri. In quell'epoca Amanda frequentava molto la casa dei Treva. Al giornale aveva un orario flessibile e ogni volta che poteva arrivava alla grande casa dell'angolo con suo fratello Miguel, senza che la presenza di entrambi si facesse notare in quel casermone sempre pieno di gente e di attività. Miguel aveva allora più o meno 5 anni, era discreto e pulito, non faceva chiasso, passava inosservato, distraendosi a disegnare sulla carta delle pareti e sui mobili. Giocava da solo nel giardino e seguiva Clara in tutta la casa chiamandola mamma. Per questo, e perché chiamava Jaime papà, immaginarono che Amanda e Miguel fossero orfani. Amanda andava sempre in giro con suo fratello, lo portava a lavoro, l'aveva abituato a mangiare di tutto a qualsiasi ora e a dormire sdraiato nei posti più scomodi. Lo circondava di una tenerezza appassionata e violenta, lo grattava come un cagnolino, lo sgridava quando si arrabbiava e poi correva ad abbracciarlo. Non permetteva a chicchessia di correggere o dare ordini a suo fratello, non accettava osservazioni sulla strana vita che gli faceva fare e lo difendeva come una tigre, anche se nessuno aveva avuto l'intenzione di attaccarlo. L'unica persona a cui aveva permesso di discutere sull'educazione di Miguel era stata Clara, la quale era riuscita a convincerla che doveva mandarlo a scuola perché non diventasse un eremita analfabeta. Clara non era affatto favorevole all'educazione regolare, ma aveva pensato che nel caso di Miguel era necessario dargli alcune ore al giorno di disciplina e di convivenza con altri bambini della sua età. Lei stessa si era incaricata di iscriverlo, comprargli quello che gli serviva e la divisa, e di tener compagnia ad Amanda quando l'aveva lasciato il primo giorno di scuola. Sulla soglia dell'aula Amanda e Miguel si abbracciarono piangendo finché la maestra non riuscì a separare il bambino dalle sottane di sua sorella, alle quali si aggrappava con i denti e le unghie, strillando e tirando calci disperati a chi si avvicinava. Infine, aiutata da Clara, la maestra era riuscita a trascinare dentro il bambino e la porta della scuola si era chiusa alle sue spalle. Amanda era rimasta tutta la mattina seduta sul marciapiede, Clara le faceva compagnia perché si sentiva colpevole di tanto dolore altrui e cominciava a dubitare della saggezza della sua iniziativa. A mezzogiorno era suonata la campana e si era aperto il portone. Videro uscire una fiumana di scolari e tra di loro, in ordine, zitto e senza lacrime, con una riga di matita sul naso e i calzerotti mangiati dalle scarpe, camminava il piccolo Miguel che in quelle poche ore aveva imparato a muoversi senza star per mano a sua sorella. Amanda se l'era stretto freneticamente contro il petto e nell'ispirazione del momento gli aveva detto: "Darei la vita per te, Miguelito". Non sapeva che un giorno avrebbe dovuto farlo. Intanto Esteban Trueba si sentiva ogni giorno più solo e furioso. Si era rassegnato all'idea che sua moglie non gli avrebbe più rivolto la parola e, stanco di inseguirla in ogni angolo, supplicarla con gli occhi e trapanare buchi nelle pareti del bagno, decise di darsi alla politica. Come Clara aveva pronosticato, avevano vinto le elezioni gli stessi di sempre, ma con un margine così scarso che tutto il paese stava allerta. Trueba pensò che fosse il momento di schierarsi in difesa degli interessi della patria e del partito conservatore, dato che nessuno poteva incarnare meglio di lui il politico onesto e incorrotto, come egli stesso diceva, e aggiungeva che si era fatto con le sue forze, largendo lavoro e buone condizioni di vita ai suoi mezzadri, padrone dell'unica tenuta con case di mattoni. Era rispettoso della legge e della tradizione e nessuno poteva rinfacciargli alcun delitto se non l'evasione fiscale. Assunse un amministratore per rimpiazzare Pedro II Garcia e lo mise a capo delle sue galline da uova e delle sue mucche importate alle Tre Marie e lui si sistemò definitivamente nella capitale. Trascorse diversi mesi dedicandosi alla sua campagna, spalleggiato dal partito conservatore, che aveva bisogno di gente da presentare alle prossime elezioni parlamentari e dalla propria fortuna che mise a servizio della sua causa. La casa si riempì di propaganda politica e dei suoi sostenitori che la presero praticamente d'assalto, mescolandosi con i fantasmi dei corridoi, i Rosa Croce e le tre sorelle Mora. A poco la corte di Clara venne sospinta verso le stanze sul retro della casa. Si stabilì una frontiera invisibile tra il settore occupato da Esteban Trueba e quello di sua moglie. Secondo l'ispirazione di Clara e secondo le necessità del momento, cominciarono ad aggiungersi alla nobile architettura signorile stanzette, scale, torrette, terrazze. Ogni volta che c'era da alloggiare un nuovo ospite, arrivavano gli stessi muratori e costruivano un altro locale, così la grande casa dell'angolo finì per sembrare un labirinto. "Un giorno o l'altro questa casa diventerà un albergo", diceva Nicolas. "O un piccolo ospedale", aggiungeva Jaime, che cominciava ad accarezzare l'idea di portare i suoi poveri nel quartiere alto. La facciata della casa rimase inalterata. Davanti spiccavano le colonne eroiche e il giardino alla Versailles, ma verso il retro lo stile si perdeva. Il giardino posteriore era una selva ingarbugliata dove proliferavano varietà di piante e di fiori e facevano chiasso gli uccellini di Clara insieme a varie generazioni di cani e di gatti. In quella fauna domestica, l'unico che ebbe qualche rilievo fu un coniglio che Miguel aveva portato, un povero coniglio qualunque che i cani leccavano costantemente finché non gli cadde il pelo e si trasformò nell'unico calvo della sua specie, coperto da una pelle cangiante che gli dava l'aspetto di un rettile occhiuto. A mano che si avvicinava la data delle elezioni, Esteban Trueba divenne sempre più nervoso. Aveva arrischiato tutto quello che possedeva nella sua avventura politica. Una notte non resistette più e andò a bussare alla porta della camera da letto di Clara. Lei gli aprì. Era in camicia da notte, si era messa i denti perché le piaceva sgranocchiare biscotti mentre scriveva sul suo quaderno in cui annotava la vita. A Esteban Trueba sembrò giovane e bella come il primo giorno che l'aveva portata per mano in quella stanza tappezzata di seta azzurra e l'aveva fatta fermare sulla pelle di Barrabas. Sorrise al ricordo. "Scusa, Clara", disse arrossendo come uno scolaretto. "Mi sento solo e angosciato, voglio restare un momento qui se non ti disturba". Anche Clara sorrise, ma non disse niente. Gli indicò la poltrona ed Esteban si sedette. Rimasero un momento zitti, spartendo il piatto di biscotti e guardandosi stupiti perché era molto tempo che vivevano sotto lo stesso tetto senza vedersi. Immagino che tu sappia quello che sta tormentandomi, disse infine Esteban. Clara annuì col capo. Credi che sarò eletto? Clara annuì di nuovo e allora Trueba si sentì completamente sollevato, come se lei gli avesse dato una garanzia scritta. Scoppiò in un'allegria e in una sonora risata, si alzò, la prese per le spalle e la baciò sulla fronte. Sei formidabile, Clara. Se lo dici tu, sarò senatore, esclamò. Da quella notte diminuì l'ostilità tra i due. Clara continuò a non rivolgergli la parola, ma lui non badava al suo silenzio e le parlava normalmente, interpretando i suoi minimi gesti come una risposta. In caso di bisogno, Clara si serviva del personale o dei suoi figli per inviargli messaggi, si preoccupava del benessere di suo marito, lo assecondava nel suo lavoro e gli faceva compagnia quando glielo chiedeva. Qualche volta sorrideva. 10 giorni dopo, Esteban Trueba venne eletto senatore della Repubblica proprio come Clara aveva pronosticato. Celebrò l'evento con una festa per i suoi amici e correligionari, un bonifico in denaro ai suoi dipendenti e ai mezzadri delle Tre Marie e una collana di smeraldi che lasciò Clara sul letto accanto a un mazzolino di violette. Clara cominciò a partecipare ai ricevimenti mondani e agli atti politici in cui la sua presenza era necessaria affinché suo marito avesse quell'immagine di uomo semplice e familiare che piaceva al pubblico e al partito conservatore. In quelle occasioni Clara si metteva i denti e qualche volta i gioielli che Esteban le aveva regalato. Era ritenuta la signora più elegante, discreta e incantevole della sua cerchia sociale e nessuno poteva sospettare che quella distinta coppia non si parlasse mai. Con la nuova posizione di Esteban aumentò il numero delle persone di cui bisognava occuparsi nella grande casa dell'angolo. Clara non teneva il conto delle persone a cui dava da mangiare né delle spese di casa. Le fatture finivano direttamente nell'ufficio del senatore Trueba al congresso, il quale pagava senza fare domande perché aveva scoperto che più spendeva e più sembrava aumentare la sua fortuna ed era giunto alla conclusione che non sarebbe stata Clara, con la sua ospitalità indiscriminata e le sue opere di carità, a rovinarlo. Dapprima aveva considerato il potere politico come un giocattolo nuovo, aveva raggiunto la maturità nei panni dell'uomo ricco e rispettato che aveva giurato di diventare quando era un povero adolescente, senza padrini e senza altro capitale che il suo orgoglio e la sua ambizione. Ma poco dopo aveva capito di essere solo, come sempre. I suoi due figli lo evitavano e con Blanca non aveva più avuto rapporti. Sapeva di lei attraverso quanto raccontavano i suoi fratelli che e si limitava a inviarle un assegno ogni mese fedele al patto stipulato con Jean de Satigny. Era così lontano dai suoi figli da essere incapace di sostenere un dialogo con loro senza finire tra gli urli. Trueba veniva a conoscenza delle follie di Nicolas quando era ormai troppo tardi, ossia quando tutti ne parlavano, e non sapeva niente nemmeno della vita di Jaime. Se avesse sospettato che si incontrava con Pedro Terzo Garcia, col quale aveva stretto un'amicizia fraterna, gli sarebbe sicuramente venuta un'apoplessia, ma Jaime si guardava bene dal parlare di queste cose col padre. Pedro Terzo Garcia aveva lasciato la campagna. Dopo il terribile incontro col suo padrone, l'aveva accolto padre José Dulce María nella casa parrocchiale e gli aveva curato la mano. Ma il ragazzo era sprofondato nella depressione e ripeteva senza tregua che la vita non aveva alcun senso perché aveva perso Blanca e non poteva neppure suonare la chitarra, che era la sua unica consolazione. Padre José Dulce María aspettò che la tempra robusta del giovane gli facesse cicatrizzare le dita e poi lo issò su un calesse e lo condusse nella riserva indiana dove lo presentò a una vecchia centenaria che era cieca e aveva le mani rattrappite dai reumatismi, ma che si adoperava ancora a intrecciare la paglia con i piedi. Se lei riesce a fare un cesto con i piedi, tu puoi suonare la chitarra senza dita, gli disse. Poi il gesuita gli raccontò la sua storia. Alla tua età anch'io ero innamorato, figliolo. La mia fidanzata era la ragazza più bella del villaggio. Ci dovevamo sposare e lei aveva cominciato a ricamare il suo corredo e io a risparmiare per costruirci una casetta. Quando venni chiamato di leva. Quando tornai, si era sposata col macellaio ed era diventata una grassa signora. Ci mancò poco che mi gettassi nel fiume con una pietra ai piedi, ma poi decisi di farmi prete. Un anno dopo aver preso i voti, lei rimase vedova e veniva in chiesa a guardarmi con occhi languidi. La risata franca del gigantesco gesuita risollevò l'animo a Pedro III e lo fece sorridere per la prima volta in 3 settimane. Perché tu veda, figliolo, concluse padre José Dulce María, che non bisogna disperarsi, rivedrai Blanca il giorno che meno te l'aspetterai. Così, guarito nel corpo e nell'anima, Pedro III García partì per la capitale con un fagottino di indumenti e qualche moneta che il prete aveva sottratto dall'elemosina della domenica. Inoltre, gli aveva dato l'indirizzo di un dirigente socialista nella capitale che lo accolse in casa sua nei primi giorni e poi gli trovò un lavoro come cantante in un circolo di artisti. Il giovane andò a vivere in un quartiere operaio, in una baracca di legno che gli sembrò un palazzo, senza altri mobili che una branda, un materasso, una seggiola e 2 cassette che gli servivano da tavolo. Di lì diffondeva il socialismo e rimuginava la sua amarezza per il fatto che Blanca si era sposata con un altro, rifiutando di accettare le spiegazioni e le parole di conforto di Jaime. Poco tempo dopo, recuperò l'uso della mano destra e moltiplicò l'uso delle dita che gli restavano e continuava a comporre canzoni su galline e volpi perseguitate. Un giorno lo invitarono a un programma radiofonico e quello fu l'inizio di una vertiginosa popolarità che neppure lui si aspettava. La sua voce la si sentiva spesso alla radio e il suo nome divenne noto. Il senatore Trueba, tuttavia, non l'aveva mai sentito nominare perché in casa sua non voleva apparecchi radiofonici. Li considerava strumenti propri della gente incolta, portatori di influenze nefaste e di idee volgari. Nessuno era più distante dalla musica popolare di lui, che come unica melodia riusciva a sopportare l'opera durante la stagione lirica e la compagnia di operette che arrivava dalla Spagna ogni inverno. Il giorno in cui Jaime arrivò a casa con la novità che voleva cambiarsi il cognome, perché da quando suo padre era diventato senatore del Partito Conservatore, i suoi compagni gli erano ostili all'università e diffidavano di lui nel quartiere della Misericordia, Esteban Trueba perse la pazienza e ci mancò poco che lo prendesse a schiaffi. Ma si trattenne in tempo perché gli aveva visto nello sguardo che questa volta non l'avrebbe tollerato. Mi sono sposato per avere figli legittimi che portassero il mio cognome e non dei bastardi che portino quello della madre. Gli aveva spiattellato livido di furia. 2 settimane dopo sentì commentare nei corridoi del congresso e nei saloni del club che suo figlio si era tolto i pantaloni in Plaza Brasil per darli a un povero e se n'era tornato a casa camminando per 15 isolati, in mutande, seguito da una cagnara di bambini e di curiosi che lo applaudivano. Stanco di difendere il suo onore dal ridicolo e dai pettegolezzi, autorizzò suo figlio ad adottare il cognome che più gli garbava, purché non fosse il suo. E quel giorno, chiuso nel suo studio, pianse di delusione e di rabbia. Cercò di dirsi che simili eccentricità gli sarebbero passate quando fosse stato maturo e prima o poi si sarebbe trasformato nell'uomo equilibrato che avrebbe potuto assecondarlo nei suoi affari ed essere il sostegno della sua vecchiaia. Con l'altro figlio invece aveva perso le speranze. Nicolás passava da un'impresa fantastica all'altra, in quei giorni aveva per la testa l'idea di attraversare la cordigliera, proprio come molti anni addietro ci si era provato il suo prozio Marcos, con un mezzo di trasporto poco comune. Aveva scelto di sollevarsi in un pallone, convinto che lo spettacolo di un gigantesco pallone sospeso tra le nubi sarebbe stato un irresistibile elemento pubblicitario che qualunque bibita gassata avrebbe potuto sponsorizzare. Copiò il modello di uno Zeppelin tedesco di prima della guerra, che si sollevava tramite un sistema di aria calda e poteva portare nel suo interno una o più persone di temperamento audace. Il lavoro per montare quella gigantesca salsiccia infiammabile, per studiarne i meccanismi segreti, le correnti dei venti, i presagi delle carte e le leggi dell'aerodinamica, lo tennero occupato per molti mesi. Durante intere settimane dimenticò le sedute spiritiche dei venerdì con sua madre e le 3 sorelle Mora e non si era nemmeno accorto che Amanda aveva smesso di andare a casa sua. Una volta terminata, la nave volante si trovò di fronte a un ostacolo che non aveva calcolato. Il direttore delle gassose, un gringo dell'Arkansas, si rifiutò di finanziare il progetto, adducendo il pretesto che se Nicolás si fosse ammazzato col suo marchingegno, la vendita delle sue bevande sarebbe calata. Nicolas cercò di trovare altri sponsorizzatori, ma a nessuno interessava. Tutto Tutto ciò non fu sufficiente a farlo desistere dai suoi propositi e decise di sollevarsi comunque, fosse anche gratis. Il giorno stabilito, Clara continuò a sferruzzare imperturbabile, senza prestare attenzione ai preparativi di suo figlio, nonostante i familiari, i vicini e gli amici fossero inorriditi dal piano scapestrato di attraversare le montagne su quella macchina strampalata. Ho il presentimento che non si solleverà, disse Clara, senza smettere di lavorare a maglia. E così avvenne.